sono venuto qui no per contare le formiche e bambole, amo già pettinate tutte, voglio vincere. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Si propone ancora Soriano, Eto'o va via, Iturbe, ancora Eto'o in area di rigore, Eto'o col destro, la mette dentro, possibilità per la Samp che passa in vantaggio, 1-0 e la firma è di De Silvestri. Muriel prova a sfruttare la sua velocità, il passo di Muriel, Yang Abiwa non può starvi dietro, Muriel fino in fondo, Muriel, pallone sul destro, il palo salva la Roma, ancora Muriel, Duncan, Eder vuole arrivare fino alla porta, Muriel alla fine 2-0 per la Samp, Luis Muriel. Gruppo c'è, il riferimento, se poi si fa spesso un riferimento alla Roma dell'anno passato, è evidente che della Roma dell'anno passato mancano troppi interpreti per considerarla e paragonarla e rapportarla a quella di quest'anno. Sarò mai un peso per questo club. Io darò tutto fino all'ultimo forza del campionato di quest'anno e faremo i conti alla fine della stagione. Chiedetemi se sono felice. No, sì. Allora, l'accoglienza, cioè, a parte Pierluigi Pardo, ma l'accoglienza straordinaria. Pardo, siamo tornati sul campo centrale, questo studio centrale, no? Questo è un po' come lo so, ma è la prima volta che vengo qui. Primo. Secondo, mi mettono Where is my mind versione placebo, che è una roba altissimo livello. Chi è? De Luca? È De Luca. Ferronati in regia. De Luca che ascolta in realtà neomelodici napoletani, grandissimo rispetto. Una sera però ogni tanto si concede anche un momento con i placebo. Buongiorno. Buongiorno. 800240024 è il numero verde. Mi pare che notizia qualcuna ce l'abbiamo, Sì, ieri è successo veramente di tutto. La cosa più normale è che la Lazio ha vinto la quinta partita consecutiva, una conferma di una squadra che sta benissimo, come secondo me nessun'altra squadra in Italia in questo momento. E ripeto quello che dicevo qualche giorno fa, cioè mi sembra che non ci siano motivi razionali per i quali la Lazio non possa andare in Champions. Sì, cioè, se non succedono cose assurde, cataclismi, mi sembra troppo superiore a tutto il resto della comitiva. C'è a Roma il detto mettere il sale sulla coda? Forse sì, però che vuol dire? Che vuol dire che quando acchiappi qualcuno, no? Per prendere un canarino dovresti mettergli il sale sulla coda, cosa difficile. Quando riesci a mettere il sale sulla coda, scusa, qualcuno vuol dire che ha acchiappato. Se arriva a mettergli il sale, è acchiappato, no? Esatto, infatti è modo di dire. Vuol dire che la Lazio ha acchiappato a Roma. Questo è assolutamente evidente. È lucubrazione. 800-24-0024, numero verde. Baldissoni sul futuro di Garcia. Ormai è in discussione, non c'è niente da fare. Vabbè, se ci mettessimo a parlare adesso del futuro dell'allenatore, ovviamente sarebbe ingiusto nei suoi confronti, ma in generale è inutile. Noi continuiamo a lavorare, siamo tutti in discussione, le dirigenze, sono giocatori e allenatore, perché lavoriamo tutti insieme per lo stesso risultato. Se il risultato non dovesse venire, cosa che però non ritengo di voler considerare, perché la Roma credo che sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi, cioè il secondo posto e andare ancora avanti in Europa League, ma se non dovesse raggiungere i propri risultati, ovviamente sarebbe un momento di riflessione per tutti, non certo soltanto per l'allenatore. Giusto, tutti in discussione, mi sembra, sì, perché anche Sabatini, che era re del mercato. Sabatini, ragazzi, ha fatto delle cose geniali, quest'anno ha sbagliato quasi tutto. Sinceramente, insomma, i turbe stanno pagando troppo in relazione a quello che è. Io pensavo facesse un po' meglio, ma in ogni caso, insomma, su questa quotazione di Turbe io sono stato sempre abbastanza dubbioso, perché comunque alla fine ha fatto 8 gol l'anno scorso a Verona. Certo. Un giocatore che ha fatto delle cose interessanti, con grande potenziale di crescita, però insomma non è un giocatore che forse non era già pagato 15 milioni, 18 milioni, c'era tanto. La scommessa potevi fare. Quindi questo per quanto riguarda i Turbe. Poi gennaio è stato disastroso. Dumbiano sta in piedi, non parla di Barbo. La speranza dei tifosi della Roma è che i Barbo sia una, diciamo, una specie di fish per riscattare Nainggolan. Sì. E se fosse così va bene, allora può essere anche più logico, però insomma le società che si sono mosse bene sono altre. Certo. Questo è evidente. La Roma adesso sta pagando in maniera abbastanza impronosticabile. Poi c'è la legge di Murphy, nel senso che quando le cose vanno male vanno possono sempre andare peggio. Ieri sinceramente, insomma, delle ultime partite della Roma, almeno il primo tempo è stato secondo me incoraggiante, nel senso, la Roma ha costruito occasioni, cosa che non si vedeva da tempo. Poi si è sfaldata negli ultimi 20 minuti in maniera quando folle. Costruisci occasioni dovresti avere anche qualcuno che finalizza, comunque, certo. Adesso abbiamo il traffico. A proposito di traffico, traffico di Roma questa mattina. Ah. C'è Pjanić in giro per strada. Si avvicina una Smart color argento, si affaccia un signore, tira giù il finestrino, si affaccia e parla così. Non lo faremo a posto. La coppa, ragazzi. Andrei da Nando San Vito. Tutti convocati. Presidente, c'è Mihailovic che la sta ascoltando, quindi sa un annuncio. Mihailovic, lo amo follemente, ecco. Grande mia. Eh? Ricambia Mihailovic, è un amore corrisposto? Io amo mia moglie. Mi spiace, non lo presidente. Dirà mai perché, ma non lo dirà mai perché sennò viene frainteso, no? No, vabbè, ma è ovvio che siamo però su. Però mi ama, io lo so perché è un amore platonico. Certo. Di stima. Speriamo che è platonico. Lo dico io. Sì. Vai Sinisa, perché c'era un pallone che gli è arrivato vicino, allora l'ha tirato e ha sbagliato, ha detto ho fatto una figura di merda. Io ho detto vabbè, questo nel calcio moderno si chiama non look, perché guardavo da una parte, pallone è partito da tutta un'altra parte. Ma però non sembra male, calcia bene con l'esterno da un bel giro. Grazie presidente. Sì, ma voleva dare palla dall'altra parte. C'ho un po' i piedi fucilati. Piedi fucilati, far paio con i carcinacci. Esatto. Grande romanità, Carcinacci è eccezionale. No, in realtà la Samp non è una squadra di carcinacci, no, tutt'altro. Altissima classifica, grande stagione, però sì, Carcinacci. Ma per esempio, ragazza non bella si dice Cancello. Cancello. Sono queste espressioni gergali, colloquiali, tipiche della capitale. Questo che si affaccia dal finestrino della Smart, ma che fa? A Sant'Andrea è una squadra dei carcinacci. Non facciamo mica apposta. Penso se facessero apposta. Facessero anche apposta. Saluto e ringrazio Mario Beretta, che è un piacere sentire. Ciao, buongiorno, mister. Buongiorno a tutti. Come buongiorno. Va, mister? Tutto bene, grazie. Che lettura dai di quello che succede alla Roma? Che mi sembra un po' il titolo, il tema fondamentale di oggi. Poi parliamo anche del resto. Come succede che una squadra possa implodere in questo modo? A volte non ci sono spiegazioni, sicuramente poi. Magari si può ripensare alla stagione scorsa, dove ha fatto un grande campionato senza le coppe, quindi con una preparazione diversa, probabilmente alla luce anche degli infortuni che ci sono stati, probabilmente qualche errore sotto questo aspetto, giocatori che magari hanno reso meno, ma probabilmente ce ne sono tante di cause. Quello è fuori dubbio. Credo che fondamentalmente ci sia un aspetto, vedendo così anche ipotetico, non fisico, non corrono proprio. Sono una Quindi, probabilmente perché credo, chiaramente vedendola da fuori, ci sia questo aspetto rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso c'era una settimana intera di lavoro, questa no, che cambia radicalmente il modo di. Modo di lavorare. Sì, può essere magari anche qualcosa visto da dentro, no, Pierluigi? Perché quando è così, magari è lo spogliatoio che non funziona, che si è spaccato. Credo che anche, ma come al solito, poi quando vengono, magari i risultati vengono a mancare, qualche mugugno di quelli che non giocano, cose fisiologiche in una squadra di calcio. Abbastanza. Sì, quello aspetto credo che sia abbastanza tutto nella normalità. Chi non gioca, ovviamente, quando vinci non ci sono problemi. Certo, quando i risultati non vengono, saltano fuori queste cose, ma ripeto, alla Roma, come in tutte le altre squadre, dalla prima all'ultima, è chiaro che dopo, ovviamente, basterebbero un paio di vittorie per sistemare, almeno sotto questo aspetto. Poi l'aspetto atletico diventa un po' più complicato adesso. Come finisce la corsa Champions, che a questo punto diventa il campionato più interessante? La Lazio, se non cambia qualcosa, mi sembra, insomma, che sia, abbia proprio un altro passo, no? Ha preso un bello slancio, una bella onda lunga, e sta facendo molto bene, quindi sicuramente dalla decima corsa. Ovviamente l'aspetto psicologico adesso della Lazio rispetto a quella Roma è diametralmente opposto: da una parte c'è, tra virgolette, la depressione, dall'altra entusiasmo fantastico. Quindi, però, insomma, le spedi sono lì, quindi basta poco, no? Abbiamo visto nel calcio, è questione di momenti, di attimi, basta poco per invertire le tendenze. Sì, basta poco, però insomma, raramente capita di vedere 11 punti rimontati in 5 giornate. Cioè, io sono d'accordo in assoluto. No, quello è vero. No, cioè, però la tendenza è questa, e se togliamo le famose prime quattro giornate in cui la Lazio perse due partite incredibili, una soprattutto a Genova contro il Genoa e poi l'altra in casa con l'Udinese, insomma, se togliamo quell'inizio di stagione, la Lazio ha 8 punti più della Roma, tanto per essere chiari. Il Napoli mi sembra un punto interrogativo, non so che ne pensi. Il Napoli, perché ha fatto della discontinuità la loro stagione. Fanno una prestazione buona, poi o due, poi cadono, ricadono, poi ricomincia. Cioè, non ha mai dato continuità. Chiaramente, se non è continuità, certi traguardi non puoi raggiungerli. Io sono molto critico verso la logica del turnover, perché quando arrivi in un momento così della stagione, con un obiettivo fondamentale anche dal punto di vista economico, come l'assalto alla Champions League e quella davanti che si è piantata, e la Lazio che corre veloce, insomma, la partita di Verona deve diventare la partita della vita, deve diventare una specie di finale, devi giocare con i tuoi giocatori migliori. Sì, io sono della stessa idea, poi puoi cambiarne qualcuno, parliamo di sì, ma non Higuain. Però ecco, e poi bisogna andare su quelli che danno delle garanzie di un certo tipo, perlomeno è la mia idea. Poi, come sempre, succede, noi parliamo del dopo, ed è facile, perché poi dopo, se avessero vinto, hanno detto grande benissimo, si fa il turnover, quindi diventa bravo. Però al di là di questo, bisogna cercare di essere più così, cercare di dare più oggettività alle cose. Ovviamente per il Napoli sarebbe stato un grande colpo, no? Riuscire a fare il risultato pieno e arrivare alla, e cercare comunque di arrivare alla Champions League. Adesso l'aveva veramente messa in serio, anche se devo dire la verità, poi anche alla luce dei risultati di ieri, 5 squadre italiane che hanno giocato in Europa League, ha vinto solo la Fiorentina, e comunque ha vinto con una grande reazione d'orgoglio, per carità, alla fine, ma non ha dominato così come tutto sommato la classifica direbbe contro il Milan, no? Cioè, no, il Milan, no, ecco, è vero. Quindi anche quella partita lì, tutto sommato, è stata più complicata di quello che la classifica ci dice, perché la classifica ci dice che la Fiorentina è nettamente più forte del Milan. E poi, insomma, alla fine qualcuna perché ha fatto un po' di turnover, tipo il Torino, qualcuna perché è sembrata molto stanca, però alla fine c'è un pareggio, 3 sconfitte e la vittoria della Fiorentina, quindi vuol dire che l'Europa League pesa tanto, insomma. E quindi forse Benitez il giorno dopo qualche argomento in più ce l'ha, no? Da questo punto di vista, quello di sicuro. Bisogna vedere, pesa se magari certe rose non sono all'altezza per poter sopportare certe due competizioni. Dipende sempre da questo, no? Dipende da quello che il club vuole, perché se uno vuole competere in tutto, chiaramente deve mettere a disposizione dell'allenatore delle rose a riguardo. Senti, due domande ai nostri ascoltatori, sempre sulla Roma. Uno, il problema della Roma, Francesco Totti, sono anni che non dovrebbe giocare, ci scrive Danilo. E un altro ci chiede perché è stato venduto destro senza firmarsi. Che idea ti sei fatto sull'attacco della Roma, che mi pare il problema principale comunque di questa squadra, visto che ha fatto 2 gol nelle ultime 5 partite? Ma io destro non l'avrei venduto, obiettivamente, perché tra l'altro ha una media gol imbarazzante, in positivo, ovviamente. E quindi non l'avrei venduto perché comunque era l'unico punta d'area di un certo, con certe caratteristiche della Roma. Poi che dire che Totti anni che non deve giocare mi sembra veramente, veramente esagerato. Esagerato perché comunque negli ultimi anni comunque Totti ha dato veramente una grossa mano alla Roma. E per fortuna, oltretutto è ancora uno degli ultimi talenti che ci sono rimasti. Dovrebbe clonarlo, preservarlo, perché purtroppo lui e Pirlo sono gli ultimi. Il resto sono stati un po' discreti giocatori. Che fai tu di bello? Quanta voglia c'è? Ma la voglia è tanta, naturalmente, come sempre. Adesso mi sto facendo un lavoro diverso da quello che fanno gli altri, che dicono sempre tutti gli allenatori e i colleghi dicono mi sto aggiornando, perché è così, no? Sì. Va a vedere le partite, io invece diversamente vado a vedere le partite di prima categoria dei dilettanti, di amici, che mi riportano un po' al calcio vero, e in più sto facendo un lavoro sul settore giovanile che anni che non faccio, perché ovviamente per San Lazzo mia squadra, perché è così, perché credo che in questo momento possa essere utile in un futuro un metodo di lavoro di settore giovanile, esisto come sto mandando. Sì, io ho un vecchio pallino, cioè quello di allenatori professionisti di alto livello e di esperienza che vado ad allenare i settori giovanili. Tu come la pensi? E io la penso allo stesso modo. Allo stesso modo, beh, a parte che io provengo dal settore giovanile, quindi ho fatto tanti anni e quindi la mia situazione è quella. A maggior ragione adesso, dove non ci sono soldi, bisogna avere idee e metodologia, che purtroppo in Italia secondo me non c'è. Questo non c'è. Allora sto così, nel tempo che ho a disposizione sto cercando di mettere giù delle idee. Grazie mister. Grazie a voi. Alla e prossima. Buona giornata. Grazie ciao, Mario Barretta. No, io davvero ho sempre questo pallino, guardando gli americani, cioè là, gli allenatori delle università, football, baseball, basket eccetera, sono degli anziani santoni. Qui in Italia se uno diventa professionista poi raramente torna indietro. Abbiamo avuto qualche esempio, Cadregari, qualcun altro, però normalmente si prendono tecnici giovani e gli si fa fare esperienza lì. Io sarei un po' per il percorso inverso. Però, beh, ci sta e sarebbe anche una forma di valorizzazione, di pensare che quel tipo di esperienza possa essere ancora molto stimolante. C'è De Luca che fa, che dice? No, Luca? Dice che la borsa è pronta. Come va la borsa oggi? Non benissimo per ora, vediamo però, magari c'è stato il miracolo mentre parlava Beretta. Allora, borsa e torniamo con Giovanni Galli, Riccardo Trevisani, Genta e il signor Cruciani. Grazie a voi, grazie a tutti e grazie Roma! Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Qualche problema di frequenza a Roma, ci segnalano gli ascoltatori, saranno i temporali o i carcinacci, non lo so, ma adesso ripristineremo tutto, se no c'è posto. Ma no, ma siamo andati in onda, il mio fuori onda che dicevo mettiamo Battiato, ma siamo andati in onda sulla pubblicità, certo. Dicono di no, è certo, vero, certo, beh, bellissimo, è un momento di radio verità, Non so, mi sembrano contentissimi ragazzi, Vabbè, no, ma andiamo, poi Battiato comunque mandiamo. Dario dal camion che ci scrive tutti i giorni. Sì, Battiato, sì, dopo arriva. 800240024, Luciano Pescara, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Allora, io volevo fare una piccola ma attenta analisi, se permettete. Allora, praticamente i problemi della Roma sono cominciati del 7-0 col Bayern Monaco. 7-1. Lo dico. 7-1. Per la cronaca, perché secondo me loro si reputavano un po', non diciamo invincibili, ma quasi. E quando hanno scoperto invece che erano li ha resi mediocri il Bayern, e quindi chiaramente poi di redimensioni scende di nuovo sulla terra, da lì sono cominciati tutti i problemi, se ricordate, insomma, ecco. Quello praticamente è, per fare un esempio molto banale, è come quando un pugile pensa di essere invincibile e poi prende una sonora lezione, non si riprende più, smette di combattere perché è finita per lui. Sì, no, è una teoria questa assolutamente rispettabile, che molti ci sta, Sì, però sì, no, questa teoria lo so, è vera, insomma, no? Cioè in tanti la pensano così e probabilmente risponde anche al vero. Certo, sarebbe molto triste, sarebbe molto negativo nei confronti della qualità complessiva della squadra, nel senso che se basta una sconfitta pesantissima a ottobre per incrinare fu una settimana difficile. Ho capito, Torino, ma era ottobre, poi nel frattempo Torino, poi c'è stato dicembre, la Roma era tornata a -1. Uh-huh. Insomma, sì, non sì, però, per l'amor del cielo, però insomma i proclami di Garcia secondo me hanno influito proprio questo senso di superiorità poi, fondamentalmente. Però più o meno se uno è forte si ripiglia, può avere una crisi. Il 6 gennaio la classifica tutto sommato ancora recitava Juventus 40, Roma 39, Lazio e Napoli 30, questa era la classifica. No, a gennaio, tra dicembre e gennaio, sì, la Roma ha fatto quei pareggi col Sassuolo e col Milan in casa, però la sensazione era quella di una Juve un po' in affanno. Ti ricordate il pareggio contro la Samp col gol di Gabbiadini? E, insomma, dai, di che parliamo? Secondo me non può essere solo questo. Se è stato solo questo, allora veramente c'è una fragilità clamorosa, una squadra troppo fragile, insomma. Comunque sia, qualsiasi spiegazione ci possa essere, la dimensione di questa squadra ne esce offesa, no? Perché certamente. Questa squadra. Poi va detto che ci sono stati mille problemi, mille infortuni, perché questa squadra è senza Castan, non dimentichiamocelo, sì, sì. Per un problema extra infortunio di gioco. Però vedi Piero, la Lazio che Strootman. Pure ha avuto Strootman, certamente, la Lazio che pure ha avuto magari in misura minore o con un valore qualitativo inferiore i suoi problemi, è riuscita a trovare dei sostituti all'altezza, e Maurizio al posto di Gentiletti, e certo. Poi si è fatto male Djordjevic, che stava andando molto bene, hanno riattivato Klose che non stava più giocando e segnando la partita. Il caso Berghessio, mi ricordo la sera Berghessio, di Berghessio con Ferrero, hanno trovato la strada Felipe Anderson, gli è sbocciato in mano questo fiore brasiliano. Dunque bravi anche loro. Comunque invece è chiaro che su una squadra che funziona magari è più semplice. Parolo comprato secondo me Parolo e Candreva sono due super giocatori. Candreva è un giocatore che, per il quale Lotito ha detto no a tutta una serie di offerte anche molto importanti. Io credo che mai come in questo momento emerga, a proposito di Lotito, un dualismo, una dicotomia fra la parte pubblica, sì. La parte politica che è discutibile, la parte del rapporto con i tifosi che è discutibile. L'altra sera Michele Plassi, uno storico tifoso della Lazio, mi ha rifatto tutto il discorso sulla lazialità, tutti discorsi rispettabilissimi, veramente rispettabilissimi. E poi però c'è un'altra parte che è quella legata ai risultati, di un signore che arriva, prende la Lazio, spalma il debito in 23 anni, si può discutere se moralmente sia politicamente sia giusto o no, ma ci riesce, la porta spesso in Europa, le fa vincere se non sbaglio due Coppe Italia e costruisce una squadra che è forte, che, sì, sì. E che soprattutto può essere forte per anni perché ha un'ossatura talmente giovane che insomma no, ma è molto equilibrata, cioè è una costruzione molto ben riuscita la Lazio. Roberto Ascoli Piceno, buongiorno. Eccomi, buongiorno, grazie per avermi convocato. Dica. Vorrei dire un paio di cose, non solo sulla Roma ma anche su un'altra società come il Napoli. Purtroppo io penso e credo che loro siano vittime dei propri pianti, perché io questi discorsi li feci 2 mesi fa quando ho telefonato a questa trasmissione e dissi la stessa cosa. Prima purtroppo loro davano la colpa alla Juventus o davano colpa a quella partita, a quell'evento che era stato sfavorevole per quell'incontro, e poi purtroppo non sanno più cosa raccontare. Poi come in una società come la Roma o il Napoli è permesso parlare a tutti i giocatori, è permesso parlare il presidente, è permesso parlare l'allenatore, al direttore del giornale, quindi ognuno dice qualcosa. In una società come la Juventus questo non succede. Sì. C'è Giorgio De Luca che non so perché ha aperto la porta con aria minacciosa, sta venendo in studio. No, sto scherzando Roberto, ci mancherebbe altro. No, io penso che lei abbia ragione in generale, nel senso che ragione su un concetto, cioè sul fatto che secondo me Roma e Napoli, dobbiamo riconoscere, anch'io mi prendo la mia responsabilità, sono state sopravvalutate. Cioè il dato oggettivo è che sono state sopravvalutate, hanno avuto degli infortuni nel caso della Roma pesantissimi sicuramente, alcuni dei quali però legati a delle colpe, cioè alla preparazione sbagliata, altri a degli eventi traumatici e in certi imponderabili, però poi alla fine pure la Juve è stata tutto l'anno senza Barzagli, che è il miglior difensore, sì, che ha, no? Quindi non è che per forza ma l'ascoltatore magari diceva a furia di crearsi degli alibi sono rimasti prigionieri discorso. Io credo che anche un certo tipo di entusiasmo, io quando penso alla Lazio, l'ambiente di Roma è molto diverso, nel senso che i tifosi sono chiaramente tutti tifosi nella stessa maniera, innamorati della propria squadra, però chi vive a Roma lo sa, chi ha lavorato per esempio per il Corriere dello Sport, la quantità di radio della Roma rispetto alla Lazio, cioè la pressione sulla Roma è molto più forte. E la Lazio, ne parlavo per esempio con Luca Marcheggiani, spesso questo tipo di ambiente un pochino più protetto, con un tifoso un pochino più sobrio e forse quantitativamente, mediaticamente meno invadente, è questo tipo di discorso secondo secondo me la Lazio in certi momenti ha fatto anche bene, perché ha consentito di lavorare più a fari spenti, certo, rispetto a quello che succede. Magari non arriva quello che ha Smart, andando alla squadra dei carcinacci. Beh, poi lo può arrivare, poi pure, arriva anche lì, non vi preoccupate. Le Smart sono vendute in maniera indifferente a romanisti e laziali, romanisti e laziali, altro. E anche i passeggeri però ecco, sicuramente il tifo della Roma ha degli eccessi in positivo e in negativo, di amore ma anche di contestazione in certi momenti, che possono diventare secondo me più condizionanti, sì, per una squadra, sì. Ci fermiamo per la pubblicità, per il traffico? No, non ci fermiamo per fammi il traffico. Chiarire tutto questo, cioè, no. non è, tanto per essere chiari, non è mai la colpa dei tifosi, anzi, i tifosi fanno pienamente il loro dovere, lo fanno con tutto l'amore possibile, sì. Però io credo che in certe situazioni, chiaramente, l'eccesso di entusiasmo legittimo, perché la Roma aveva fatto sognare, aveva anche regalato un gioco eccezionale per un anno e mezzo, questo tipo di aspettativa poi alla fine, nel momento nel quale la deludi... Adesso dietro qualche angolo di campionato c'è un derby che potrebbe riproporre delle tematiche simili a quello famoso di Coppa Italia, che fu l'inizio della risalita della Roma di Garcia, tutti i giocatori a capochino all'inizio della stagione. Da lì la Roma ripartì, adesso dietro qualche angolo di campionato potrebbe esserci un altro derby con contenuti simili. Parlavamo di Lazio, parlavamo del fiore brasiliano che è sbocciato in mano, Felipe Anderson, poi il traffico. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Ancora Felipe Anderson, se ne va con una magia. Felipe Anderson, Felipe Anderson! Che bellezza! Il gol della Lazio, la firma di Felipe Anderson. Insiste Klose, va da solo, il tocco per Felipe Anderson. Felipe Anderson, 2-0, la doppietta di Felipe Anderson. Ha raddoppiato con l'ottavo gol in campionato Felipe Anderson. Devo stare concentrato qui come ho fatto oggi, aiutare la Lazio, che così naturalmente avrò la mia chance, e quello sono tranquillo su questa nazionale. È certo, è il mio sogno, voglio stare lì. Tutti convocati. Bottone rosso, ci stiamo raccontando in... Poi però faremo sentire Battiato a questo punto, tutti i possibili, no? Gli epic fail della storia, certo. Cioè, tutte le volte in cui si parla in diretta senza sapere. Senti, abbiamo sentito di yes. Felipe Anderson che è sbocciato. A questo punto i giolloni del campionato si ritrovano in mano, vabbè, la Juventus con Pogba, che tra l'altro ha recuperato e gioca a Dortmund, ma questa non è una novità. Dybala, Felipe Anderson, magari la Fiorentina con Salah. Questi giocatori sbocciati definitivamente. Sì, assolutamente. Mica male, per Zamparini, per Lotito, anche per i Della Valle, per la Juventus. Insomma, soldi in banca, soldi che crescono, tassi di interesse alti. Chiediamo da Marco Andrea, o da Andrea? Da Andrea Firenze. C'è il derby, Roma e Firenze, gemellaggio buongiorno, culturale. Buongiorno. Come va Andrea? Benissimo, e proprio a questo proposito volevo fare una piccola disamina sulla crisi della Roma, per ahimè la gioia e Pardo. Essendo un gioco di squadra è chiaro che quando le cose vanno bene sono tutta una serie di elementi che combaciano, quando le cose vanno male io penso che sia lo stesso coso, indirettamente proporzionale. Però lei deve dire almeno una volta, per farmi felice, deve dire almeno una volta che il calcio è liquido, se no la disamina non è... Vabbè, lo posso dire alla fine? Va bene, ok. Ok, secondo me ovviamente si tratta di... gli infortuni hanno influito, sto parlando della crisi della Roma, certo. Ha influito molto anche e sta influendo molto la gestione della parabola discendente di Totti, e ahimè non solo lui, perché anche De Rossi sembra non avere un momento brillantissimo, e ci metto pure l'altanelanza per quanto riguarda il ruolo del portiere. Anche quello è un indice sintomatico che evidentemente anche nello spogliatoio, e lì veniamo al grosso, il problema secondo me della Roma attuale, ci sono delle crepe. Questa è una cosa che non sappiamo, ma il sospetto c'è, almeno io ce l'ho. il sospetto c'è, anche ben visibile vista l'ultima litigata furiosa tra Manolas e De Santis, però sì, io penso e presumo che lì ci sia qualcosa in più che va oltre a questo negativo interpersonale fra due giocatori. Penso che ci sia il gruppetto De Rossi. Ma a me vengono in mente anche le parole di Nainggolan pubbliche, che dice: "Bah, se giochiamo in 11 è meglio rispetto a quando giochiamo in 10 e qualcuno ci ha letto riferimento a De Rossi. Esattamente, a Gervinio. Se posso aggiungere un'ultima cosa, Garcia, il metodo di Garcia sono quelli secondo me simili per un certo verso al vecchio Spalletti, al cubo, cioè Garcia è uno dei giocatori insomma chiede il massimo e li spolpa nel vero senso della parola. Probabilmente anche questo influisce sul rendimento. Per far felice Pardo posso dire che piace il liquido, lei ovviamente. Sono d'accordo con lei. Però volevo dire anche un'altra cosa. Pardo, giovedì non gliela fai. Non gliela fa che? Ma fa che? E dove va? A passare il turno. Ma chi sono? Perché giochi? Gioco. Faccio, anche giochi? Faccio il gemellaggio culturale. Quindi... Ah, fai il gemellaggio culturale? Non me l'ha detto chi, che giocavi? Chi passa il turno giovedì? Beh, io penso che non ci sia storia tra la Viola e la penso proprio di sì. Benissimo. Bene. Fra l'altro posso annunciare una cosa che mi ha detto Nardella stamattina. Dillo. Spero di non che praticamente in caso di qualificazione, e se non ci sarà la qualificazione dall'anno prossimo, il gemellaggio culturale, insomma, i musei aperti, Firenze continuerà a fare la sua parte. Quindi, insomma, a livello europeo, per tutti i tifosi stranieri, ovviamente speriamo che si comportino in maniera civile, ci saranno i musei aperti. Cioè, questa iniziativa a Firenze è piaciuta molto e quindi insomma verrà sicuramente riproposta in caso di qualificazione dai quarti di finale di quest'anno, se non ci sarà la qualificazione dal primo turno delle coppe dell'anno prossimo. Quindi insomma veramente siamo orgogliosi. Marco da Roma. Di quest'idea. Marco, sì, buongiorno. Grazie per la convocazione. Tre domande velocissime. Una al signor Pardo: quando vedremo Luciano Moggi ospite al Tiki Taka? Ma guarda, ti dico una cosa che mi piacerebbe molto, però non sono bravo come Andrew Mercu, che mi imita meglio, diciamo, praticamente. Però spesso va bene, ci sono anche delle donne, sono arrivate dietro alla regia. Ben, passiamo alla seconda. No, magari un giorno sì, magari un intervento volentieri, insomma, sì. Magari dopo lunedì, dopo l'udienza finale. L'udienza la seconda c'è? È l'udienza che c'è lunedì per lunedì. Il processo, sì, no? Sì. Poi. Famoso, lo stiamo aspettando tutti. Sì. E la seconda domanda velocissima: si parlava molto che la Champions League è un peso per le squadre, no? Invece vediamo che l'Europa League, 4 partite in 20 giorni, mentre la Champions una partita. E la terza domanda: meglio a 3 o a 4 per la Juve? Perché la paura mia più che altro è Barzagli. Fare due partite di alto livello, Palermo, Dortmund, dopo 8 mesi che è stato fermo. Nessuno lo sa meglio di Allegri. Esatto. La mia stima per Barzagli è tale che ti direi di sì con un atto di incondizionata fiducia, perché per me è un giocatore incredibile del quale si parla sempre troppo poco. Quest'anno non c'è mai stato, la Juve ha dimostrato di essere comunque all'altezza. È legittimo il dubbio, per carità, nel senso che comunque poi alla fine ci sono problematiche di carattere fisico, recuperare il ritmo partita. Però diciamo che se lo vediamo in campo all'inizio siamo contenti, diciamo così. Direi di sì. Io penso che di massimo sì. Con lui in campo tanti problemi si risolvono, insomma. E ripeto, è uno di cui si parla poco, è abbastanza poco mediatico, nel senso che non è esattamente, insomma, non sì, però basta vedere i numeri, insomma, gli estimatori ce li ha ovunque, perché sì, assolutamente. Stiamo dicendo da 4 anni che è il vero, la vera cartina tornasole del funzionamento della difesa della Juve. Luca o Vincenzo? Luca, prego Luca. Buongiorno. Signor Luca, diamo un minuto e mezzo. 90 secondi alla fine, no, tocca a Luca, prego. Pronto, dica. Pronto? Sì, abbiamo perso già 10, però andiamo. Sì. Io sono un milanista avvilito, perché questa è la parola più adatta, non è che arrabbiato, avvilito. Ma io dico, ma una società come Milan può permettersi, cioè, come posso dire, è possibile che non sappiano veramente cosa fare per queste situazioni? Una società come il Milan, che ha 30 anni di storia gloriosa, non sappia come cavolo risollevare questa situazione? E soprattutto, possibile che la parola scusa verso i tifosi non sia proprio ammessa nella città Milan? Perché veramente è una cosa indecente, punto. Trovo il suo commento, grazie. No, il Milan sta diventando una vicenda abbastanza incommentabile come il Parma, perché non, effettivamente mancano le parole. Proveremo a trovarle nella... seconda parte del sì, nostro programma. Perché adesso Milan è un argomento, c'è Vincenzo, non ci siamo dimenticati di Vincenzo D'Ancona. Lo preghiamo di aspettare che abbiamo GR. Il brodetto. Ma scusa, Ancona, mi accende subito, sì. Dei languori. Vabbè, GR, dai, poi stai qui, no? Sì, sì, poi Giovanni Galli, Vincenzo D'Ancona, il brodetto, lo scontadito, tutto questo fra un attimo, ma subito Giovanni. Si ricomincia. Tutti convocati. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Ma c'era De Luca tutto concentrato, ma oggi ragazzi, ha messo la cura, eh? Le correnti gravitazionali ci sono sempre, Sì, la cura è nella mia top 5 di battaglia. So che è una canzone. Sì, voi che dite, ragazzi? Magic Shop? Stranizza d'amori? Gli uccelli? E ti vengo a cercare? Perché hai fatto quella faccia su quel titolo lì? Beh, comunque gli facciamo in bocca al lupo. De Luca mi parla a gesti e senza. Certo, gli facciamo gare in bocca al lupo, ci mancherebbe altro. Grande in bocca al lupo, abbiamo sentito nel GR che è stata operata la gamba. Lesa, tutto bene. Sì, ma insomma, nessun niente di grave. Esatto, un'occasione. Fuori 3 settimane, poi torna. Fuori 3 settimane, poi torna in campo. Regolare. Pierluigi. Vincenzo. No, Pierluigi. Ma Vincenzo, hai ragione. 4:28. Vincenzo, come va? Scusi, Vincenzo D'Ancona. La convocazione. Io volevo ritornare a parlare di Roma, ma dalla visione opposta. Sì, sarebbe. Quella della Lazio. Più che la Roma che è implosa, sì. Non si potrebbe dire che questa Samp sta esplodendo ogni giornata sempre di più, anche perché se ne parla poco, se non fosse per il presidente Champagne. Ma allora non mi pare se ne parli poco di Sampdoria. Tutta la stagione sta facendo un grandissimo campionato, si parla di Mihajlovic per tutte le panchine do mundo, si è parlato di Gabbiadini che ha portato all'esplosione, si è parlato di Okaka, di io ho avuto Ferrero 3 volte ospite in trasmissione, lo aspetto anche se vuole lunedì prossimo. A Mihajlovic faccio una corte dall'inizio dell'anno e mi ha promesso che verrà prima o poi. Francamente, al di là di quel solito discorso che facciamo sempre, e in qualche modo chiediamo anche scusa di questo, però a me piace essere onesto con gli ascoltatori e con i telespettatori. Cioè, se si fa un programma nazionale è inevitabile che i bacini di utenza, come quella famosa telefonata di Lotito, in qualche modo testimonia. Insomma, contano, e in Italia ci sono 5 squadre, le 3 grandi del nord, il Napoli, e in quinta posizione la Roma, che numeri alla mano in tutte le ricerche statistiche e di ascolti che fate, che potete trovare, hanno dei numeri più alti, e quindi è abbastanza difficile che si parli così tanto della Samp, a meno non faccia cose clamorose della Samp, del Genoa, del Palermo, della Lazio. Sono squadre importantissime, di straordinaria tradizione, molto amate ovviamente dai tifosi, però in un contesto nazionale si può arrivare al paradosso che si parli più del Milan, decimo in classifica, come stiamo per fare adesso, che piuttosto Lazio, che della Samp o della Lazio, in generale, e non è cattiveria, è un puro elemento, diciamo così, di rappresentazione della popolazione italiana e del numero di tifosi. Detto questo, poi quando si parla intellettualmente con onestà, la Samp sta facendo un campionato eccezionale, la Fiorentina, adesso ne parliamo a proposito di Fiorentina-Milan, sta facendo cose molto, molto importanti, ancora in corsa su 3 fronti, sì. Della Lazio abbiamo parlato per tutta la prima parte, sì. È la grande. Anche c'è qualcuno che con enorme malizia ha scritto da qualche parte: se la Lazio andasse in Champions League l'anno prossimo sarebbe un po' come il Carpi in Serie A dal punto di vista dei bacini d'utenza, dell'appeal, eccetera. Beh, quello insomma, senza che nessuno si offenda, ci può stare, nel senso che poi alla fine quel discorso lì ho assolto Lotito. può essere stato un discorso, mi prendo le mie responsabilità, può essere stato un discorso sgradevole da sentire, ma era una conversazione secondo me generale su quel tema lì, e stava facendo un ragionamento sul fatto che ci sono delle realtà che dal punto di vista del bacino d'utenza pesano di più e altre che pesano di meno. Diverso sarebbe, ovviamente l'ho detto mille volte, lo ribadisco, se poi a quella famosa telefonata di Lotito ne è seguita un'altra al capo degli arbitri o alla Bodi dicendo: oh, questi me li dovete fermare in tutti i modi, perché non devono salire ecco. Allora, se c'è stata questa seconda telefonata è reato. Quella conversazione lì è una conversazione generica, e allora con una battuta, guarda, accetto la tua provocazione. È chiaro che Platini se può decidere tra Roma, Lazio, Napoli eccetera, ma no, probabilmente se può decidere prende i numeri e vorrebbe Inter, Milan e Juve in Champions League, se può scegliere tra italiane, no, piuttosto che Lazio, Fiorentina, Sampdoria o la stessa Roma, perché i numeri sono quelli. Però insomma, poi la bellezza dello sport è, come abbiamo detto a proposito del Carpi, al quale facciamo un grande in bocca al lupo, a proposito della Lazio, a proposito della Fiorentina e della Samp, è che spesso, ed è la bellezza del gioco, il budget o il bacino d'utenza non serve a niente, serve la bravura degli uomini e delle società nel riuscire a fare, ed è ancora più bello, è ancora più significativo, cioè che la Lazio sia un punto dalla Roma, sia in corsa per andare in Champions League, o che la Sampdoria sia lì dov'è con i budget che ha, che sono un quinto, un sesto di quelli delle squadre top, a tante cose, è ancora più da sottolineare. Parliamo di una squadra invece con grande bacino d'utenza. Posso dire che c'è un amico fiorentino che ci scrive che Battiato rientra prima di Giuseppe Rossi e di Mario Gomez. Facciamo ovviamente. Prego. Menes, vuole Van Ginkel, palla buona per Bonaventura che conclude così destro! Da rapinatore, d'area di rigore, l'area è casa sua, Mattia Destro, Milano in vantaggio. Joaquin, cross forte all'altra parte, colpo di testa! Gonzalo Rodriguez, pareggia la Fiorentina con il gol di Gonzalo, 1-1. Badel gioca di prima e gioca bene, da Pasquale, il cross che passa sul secondo Balocchi! Sembrava impossibile potesse capitarmi, e invece mi è successo veramente, veramente, veramente, veramente. Io ho un contratto, cerco di lavorare giorno dopo giorno e poi la società farà le proprie considerazioni. Insomma, solo questo, poi se mi terranno bene, se no andrò avanti per la mia strada, ma sempre a testa alta, con grande professionalità, con grande voglia. Questo è un lavoro che mi piace tantissimo, purtroppo ti regala queste serate difficili da digerire, perché quando una squadra gioca così non può perdere, però bisogna saper reagire. Fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere una nuova stagione, fammi vivere una nuova illusione, fammi vivere veramente, veramente. Con Pippo c'è appunto un grande rapporto, parlavamo un po' di calcio e secondo me questa esperienza lo maturerà moltissimo, perché dover affrontare tante difficoltà sotto pressione, un bacino d'utenza come Milan sicuramente lo arricchisce e lo arricchirà come allenatore, a prescindere da tutto. Sembrava impossibile potesse capitarmi, invece mi è successo veramente. Allora, Giorgio, i clip sono bellissimi. Giorgio Luca è così concentrato, sembra Kluderdorfmeister, no? Cioè i DJ austriaci, sembra adesso. Perché sta lì tutto concentrato con la tipo adesso, entra adesso. Direttore d'orchestra. Grande. Giovanni Galli, buongiorno. Buongiorno. Come va? Sei a Firenze? No, sono a Lucca in questo momento. Sei a Lucca? Ah, Lucca. Bella anche Lucca, Piazza di Teatro, roba seria. Gio, diventa difficile. Io prima ho detto, commentare il Milan è quasi commentare il Parma. Sono finite le parole. Ho perso le parole. Purtroppo è un momento molto difficile, molto difficile sotto tutti i punti di vista. La partita di ieri sera effettivamente dimostra quale può essere anche lo stato mentale e psicologico di questa squadra, insomma, perché condivido quello che diceva Pippo Inzaghi, che comunque il Milan ha fatto una buona partita, non una partita eccellente, una buona partita contro una Fiorentina stanca e meritatamente era passato in vantaggio. E poi inspiegabilmente, come spesso gli succede, gli si spenge la luce. Spenge la luce e abbiamo visto proprio errori clamorosi, proprio di attenzione, errori di dislocazione anche dei giocatori in campo, soprattutto dei difensori, mancanza di attenzione su questi cross. Se vedere sul gol di Joaquin Menez, che è a fare la copertura difensiva, c'è soltanto da dire bravo a Menez, perché comunque aveva fatto 60 metri per essere di aiuto ai compagni, ma mettere Menez dentro la propria area di rigore è come mettere Giovanni Galli a fare il centravanti, insomma è la stessa identica cosa, ecco. Sì, però il senso peggiore è quello del viaggio nel vuoto, nel nulla, del viaggio a fari spenti, perché vai male e continui ad andare peggio, ma soprattutto non sai dove stai andando, non sai con chi, non sai chi guiderà la società. Adesso si parla di Sarri, però è tutto un viaggio, è un viaggio metafisico nel vuoto. Però qui la domanda è obbligata, nel senso, io voglio capire che pensi di Sarri, poi insomma fa parte della scuola toscana, voi vi conoscete tutti, insomma c'è grande cultura, devo dire, in questo la Toscana è eccezionale, proprio è veramente effetto Coverciano, è un posto dove nascono grandi allenatori, dove c'è una grande cultura e tante squadre comunque relativamente importanti. Si parla tanto di physique du rôle, no? Si parla tanto del carisma per poter governare una grande squadra. Manca la controprova, secondo te ce l'ha Sarri? Guarda, io ho avuto il piacere, cioè l'ho scelto nella mia esperienza da direttore sportivo a Verona e lo portai con me a Verona proprio per ripartire, no? Con una, diciamo, con un progetto nuovo a metà stagione, arrivavamo a dicembre, e lui si calò immediatamente, cioè mi fece capire quello che avevo visto sul campo, poi dopo lui me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto notare, me l'ha fatto toccare con mano. È vero che è un allenatore alla Sacchi, no? Che è molto didattico all'inizio, perché deve spiegare, sta tante ore sul campo, sta tante ore a spiegare ai giocatori che cosa vuole da loro, quali sono i movimenti, fa vedere tanti filmati proprio per migliorare la squadra. È un allenatore sul quale si può costruire un'idea nuova, un progetto nuovo. Detto questo, si sta parlando del Milan, non è che si sta parlando di una squadra, no, ed è vero però anche l'esatto contrario, che Sacchi arrivò al Milan dopo aver allenato il Parma Serie B, cioè non per sì, cui sì, ma ci sta il paragone, ci sta, capito? Per cui bisogna la cosa fondamentale è che all'epoca era appena arrivato Berlusconi, certo. Il Milan arrivava da zero, certo. Ripartiva da zero e non c'era pretesa di niente, no? E prese anche dei grandi giocatori, aveva anche la forza per poter prendere, e questo è il tema. Però secondo me è giusto quello che tu dici, nel senso che poi tante volte questo concetto del carisma essenzialmente manca la controprova. Ieri non mi ricordo chi, forse Dotto, diceva una cosa che non poteva sembrare quasi offensiva per Sacchi, ma in realtà secondo me è un complimento, cioè diceva, ma pure Sacchi non è che avesse questo grandissimo carisma. Beh, no, aspetta, come intendo come personaggio mediatico, no? Non è che Sacchi che lavora con noi è un guru, un santone per quello che ha vinto, per quello che ha dimostrato. Però voglio dire, non è Mourinho, no? Eppure ha dimostrato, Mourinho veniva dalla provincia, veniva da Parma e ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza. Sì, quindi io ti ricordi, io ho fiducia se venisse il giorno dopo l'eliminazione in Coppa UEFA con l'Espagnol, era più di là che di qua. Arrivò Berlusconi e disse: no, ragazzi, questo non si tocca, si va con lui, chi sta dentro, certo. Gli altri possono anche andare fuori. Ed è così che si costruisce un grande allenatore, cioè con il muro dietro della società, una società Milan. Che adesso questo sia il punto, bisogna capire dove sta andando. Un'ultima cosa per me, Giovanni, è così anticipo Pardo, i segnali, perché so che è un tema che gli sta a cuore, i segnali di impazienza, di nervosismo di Benitez, come li leggi? Beh, certamente la stagione non è iniziata nel modo migliore, cioè era finita bene, perché comunque il Napoli secondo, Napoli che vince la finale di Coppa Italia, si ripresenta in assi di partenza ancora più rinforzato e purtroppo arriva quella eliminazione, no, dalla Champions, che a mio avviso ha minato decisamente le certezze dei tifosi, le certezze forse anche dello stesso presidente. è una squadra che viaggia a corrente alternata, li vediamo fare delle partite, delle prestazioni eccellenti e tre giorni dopo, una settimana dopo, irriconoscibili, cioè una squadra irriconoscibile. Ecco, questo secondo me è il punto chiave. Cioè una squadra che deve lottare per certi livelli deve avere equilibrio, certo. Deve avere equilibrio sempre, deve saper gestire i momenti difficili, non affondare nei momenti difficili, e deve sfruttare i momenti in cui tutto ti gira bene. Al Napoli purtroppo è mancato questo equilibrio, sì. L'equilibrio di saper vincere delle partite che dovevano essere vinte, specialmente all'inizio di campionato. Sembrava che il 2015 fosse cambiato qualcosa, perché hanno fatto una striscia importante di certo. risultati, poi all'improvviso poi ricascano spenta... i soliti vizi, esatto, insomma. Solito, Palermo, Torino e Verona sono tre partite abbastanza in fotocopia, più che altro con l'atteggiamento con cui sono state interpretate. Grazie Giovanni. Assolutamente sì. E quello che mi ha detto di Benitez, soprattutto nella partita, quando è venuto in televisione, è venuto a rispondere alle domande, no, del dopo, molto seccato, molto arrabbiato dopo la partita di Torino. Ma mica a noi ci devi scusare, cioè non è che devi mostrarti arrabbiato con noi, ma quei 3.000 tifosi napoletani che avevano fatto 500-600 chilometri per venire a certo. sostenere la hai fatto, squadra. Hai fatto è benissimo loro a dirlo, che perché dare. Certo. Vorrei essere molto chiaro, non è che noi se il post partita di una partita fa lo 0,01% in più ci sposta ci danno lo stipendio, cioè raddoppiano lo stipendio. Cioè veramente non è che se Benitez o chi per lui o qualsiasi allenatore viene a parlare ci cambia la vita a noi giornalisti, onestamente non ce ne può fregare di meno, detto certo. al di là della passione che abbiamo per questo gioco, no? No, ma il discorso è il tifoso, ma detto questo perché adesso non esageriamo, perché sennò sembra fatto solo Benitez, la storia del calcio, cioè, tutte le società ci sono passate, però quando succedono queste cose un errore. Grazie Giovanni. Ciao, ciao Giovanni Galli, senti, ci andiamo anche noi. Una duni da scannare i carretteri, ogni tanto. Battiato, maestro Battiato. Battiato, siamo al top. Io chiedo scusa a Pierluigi da Pescara, ma stiamo parlando con Giovanni Galli, siamo in chiusura di. Non abbiamo 30 secondi? No. Niente, no, Pierluigi, domani. Lo chiediamo Pierluigi domani. Domani adesso c'è. Bel nome, complimenti, Pierluigi. adesso c'è il Falco e il Gabbiano. Anche Gabbiano, Enrico Ruggeri. Ciao, Pierluigi. Il Falco e il Gabbiano. Fra poco su domani Radio 24 al telefono, no? Domani al telefono. Sì, molto bene. Appuntamento qui alle 2. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e Daniele Buonamici in redazione. Ciao. Buonasera Presidente. Buonasera Marino, come sta? Col baffetto oggi, guarda che fa un teccaruccio con sta cravatta. Che c'ho da dire? La cravatta di Bartoletti. Voglio regalo io la cravatta.